carcere qui a Latina, se mi viene il soccorso, se mi viene il soccorso. Forse sto inquadrando il personaggio, non so, però adesso che mi hai detto la figlia eccetera, forse no, che abita diciamo verso Darmstadt, quindi che parleremo, anche lì mi sembra che siano ancora tutti viventi, comunque non mi risulta che delle famiglie non li conosco ovviamente, che lavoro fa il vito, che lavora oggi non è domenica, che lavoro fa il vito. Ma dai, non lo sapevo. Allora qualche volta vado e faccio il non so chi è, però vado a rompere le scatole. Comincio a rompere le scatole a tutti, prima o poi. Perché dai, così meno poi di. No, perché vabbè, lì dal medio non sono spettatori che non fanno alle. Ma guarda, non si capisce niente, veramente, perché è un casino qua. Adesso io ho montato la piscina, guarda, stavo facendo delle prove un attimo con un altro radio. Intanto che si sta, ho montato la piscina, ho fatto una chiamata e ho montato la piscina adesso, ho finito di montare, avevo fatto arrivare il pieno nuovo perché mi era scoppiata l'anno scorso, dopo 20 anni, e niente, ho rimontato tutto oggi, infatti c'è non so della Madonna, sono ancora steso adesso, cioè ci mettiamo che c'è sul vento, di solito tutti gli anni vanno alla montagna, nonostante sia 10 metri per 3, per 4, anche 1,20, 1,30, tutti gli anni la smonto, la svuoto e la metto via. Però dopo 22 anni, praticamente l'anno scorso, si è rotto un pezzo, si è strappata, e la storia è in piedi, dai, tutto lì, avanti, come strana veramente. Vai Gianluca. Sì, dottore. Dai, io mi sono lasciato fuori. Che non faccio tutto quello che sono andato a fare. Sembra, tutto a posto. Comunque, buonasera. televisori. Oh, a portare di sì. No, a te, io sono riuscito a lungo, so che si è smontato il canale, e si devo coccare, le canali alla mare. Non stai penso niente io, penso vai guadagnato, non sarà a mare, voi a so così anni che non lo vengono mare io. Cazzo mare me l'hai rocca, allora io mi bagno. Io volevo andare oggi a fare un giro al ghetto, che ci sono queste cose della macchina da corsa. Volevo andare in moto, ma con che scoperto, si è alzato un vento, ho detto va, questo qua. Oh, ma ce l'ha piccata o no? No, c'è la Rally d'Italia, siccome fanno gli stand ad Alghero, no? Ieri l'hanno fatto vedere, sì, sono ad Alghero, già l'ho visto già, e infatti, beh, è una cosa bella vedere, però ad Alghero, ma gli ha più, ma non fanno io, No, ma lì il povero non è mangi, perché lì andavano solo per fare sistemare le macchine, controllavano i motori, no, non vedevi la corsa. Ah, cioè così va bene, allora tranquillo. Ma per vedere il corrente, oh, a mai più ma non lo sanno. Io perché te, no, io ho smontato, sono arrivato a casa alle 7 stamattina, cazzo le sono bucato, non ce la voglio andare dalla prossima parte. Beh, sei un sacco, e dove la Puglia, mi sta di casa, è stato di me. No, non sono uscito di supporto, nemmeno, buttarci la mondetta, non scende in basso, ma buttare a casa, dai, sono come ero Mattesi. Andava, ma no, ma è una giornata così, era nuvolosa stamattina, è freschetto, faceva ieri notte, verso le 3, mentre faceva un po' di umidità, cazzo erano 15 gradi, 14-15 gradi. E io stavo bene, a letto, tranquillo, sopra un letto, e stati a me, tranquillo. Beh, uno che lavora magari, e non fa, e così magari senza far niente, è chiaro che si piglia un po' di umidità. Giovanni, il lavoro già sa com'è, il nostro lavoro è così, devi stare lì, fare il cantonamento e controllare, dove devi controllare. Guardate, ti va un giro, ti guarda la televisione, e cosa fa? Non fai altro. Però devi stare sempre attento. Chi altro c'era qua? Ma che è venuto a dire, la giornata, cazzo, la già fatto l'impresa, sa va. E poi ti sei non venire su. Cazzo. Ciao Mari, a nuovi pomi. Direttamente impegnato, A Torino. Chissà cosa combinando avanti. Avrà chiuso, perché entrato, ho sentito la voce di sua, se non è entrato non avrà più. Emanuele, ci compa. Ehi, briciola. Ci compi, chi c'è qua? C'è Gio Maria. Ciao Gio Maria. C'è un leggero fischio, Lo so, quando stavo puntando poco fa a Manetta le preambi per controllare con la Francia. Comunque buonasera, ben sentito. Calma, sto usando anch'io per andare anche in voce da sempre preparare. SSMI è tutto quanto già. E ce l'ho uguale, capito? Come ne faccio? Perché faccio solo con le frequenzine e basta, ma il resto è tutto uguale. A me interessa la stazione fissa, Giovanni, perché buonasera. Lascia la portante fissa e fa parlare un attimino. Calma. Va bene? Sì, va benissimo. Però poco fa c'era qualche campanello in mezzo, vero Manuel? Sì, quando metto il preamp c'è il NESC. Quando metto Manetta, Manuel? Adesso va bene. Ho abbassato. Poi mi sentivano bene a Lione. Adesso già va bene. Rebien. E tutti le cavasse qui. Il microfono c'è usando, è un po' strano, Oh, io lo sento strano. Manuel, a Torino. Giovanni, principi che mi avevo chiesto, non lo con nessuno, è un signor Sure. Ah, già lo conosco, l'ho avuto, lo conosco benissimo, e mai mai, ma dai due lì mi manca, dice, niente me che sarà manco 30 o 40 anni fa. Ma è quello proprio, quello sono con le rosse, capito? Il volume, quello grigio che si alza la testa in alto. Ma è bello, eh? E infatti è tutto originale, e non lo do nessuno, ma ho chiesto a molte persone, me l'ho offerto anche 100 euro e tornò, non le do. Però se aumenti, abbassa leggermente i marchighini, che c'è sempre quelle specie di trombetta. Allora Giovanni, allora ti spiego, se fa questo innesco perché io lo spilotto qua del Mike non l'ho saltato, è tutto aperto, ho fatto una prova, l'ho collegato, poi è troppo vicino, intanto mi tocca fino con l'altro e innesca, capito? Però tempo per poterlo saltare bene bene bene, tutto qua. Adesso c'è uscito perfetto, eh. Adesso è perfettissimo, vero Manuel? Adesso va benissimo. E beh, amplifica Manuel. E a Vulvia. E io come ti arrivo, sta lì? Tu sei quasi poco scarpa, Radio 5 è perfetta. Allora tranquillo, Quello che ti ha fatto vedere Emanuele. Emanuele, per come sta modulando, arriva molto bene qua. Ma gli ha mandato la foto, Emanuele. E ha detto, Torì, è quello che ti ho fatto, che ti ho mandato io, in fotografia che sta usando Gianmaria. Ho capito, ma è uguale al mio, capito, non cambia nulla, c'è i stessi canali, non ne fai nulla, capito, non c'è nessuno, quindi stesso io ho anche un 23 canali, c'è la zia fatta con quello lì, intanto più che questi canali non puoi operare, non c'è mai nessuno, c'è tutto Francia, Germania, su i canali alti, 52. Non ne vale più la pena, non ne vale più la pena spendere soldi per che cosa, ma... Ti troppo così, Manuel. Quando la cosa mi piace, anche se ne ho altri, mi piace quello tipo, me lo prendo. Giovanni, io vedo così lo stesso, mi piacevano per averli, per vederli davanti, poi alla fine mi è data solo uno. E beh, una volta l'altra, e quando la cosa piace mi dà ragione. Io sono stato sempre così, o meno, io. Va bene, e così sono stato sempre, per cui mi piace ancora, tutto lì. Avanti, Tony! Capo Giovanni, ma è inutile che se così e poi te le vendi a che non le fai nulla, ce le doppi, ce le tripli, dopo le compri Giovanni, lascia uno, non passa, io qua se avete una pulsazione fissa ero, però le preso a uno, io questi piccolini non mi piace, al metatore chi te che dà lui invece infila la spina e vai. Sì, anche quello è vero, certo, però però bene, ancora non mi è passata questa mania, è una cosa. Se li hai già usati, che poi ce li metti da tavola. saturi e quindi li devi sempre accendere ogni tanto. Basta non lasciare sempre il tuo scatto ogni tanto le togli, 10 minuti, un quarto d'ora, dopo il torna fuori e va bene un mese. E l'occhio vuole la sua parte, Emanuele. L'occhio, però io sono fatto così, ecco, l'occhio vuole la sua parte, boh. Sì, quello sì, Giovanni, quello sì. Ma anche io ero così, però me ne è passato la voglia. Mia mamma e io tra i cammassiani delle radio antiche. Mi piacciono queste radio antiche qua e sono cubile nei cerrali. Adesso mi sono calmato un pochettino perché se no mi... ogni mese ne stavo prendendo uno o due. Ti interessa, tanto non ne faccio niente, è già anni fermo chissà cosa, per cui se ti piace me lo di e le fa vedere. La radio antica, ma non malacchino, radio. Anche le radio, anche quello c'ho io, c'ho un geloso. C'è un giorno che fa televisione, ma Zanatti insomma televisione, ma Zanatti e radio. Ma di che anno sono? Ma è a transito però. Mi sapete, abbia 40 anni o più. E fai, non c'è, ma non ce l'hai in casa, cioè. In casa ce l'ho, allora. Presta un mobile, dai due di femmure. Ma penso che la televisione non funzioni adesso perché è già un'altra frequenza, capito? Geloso Giovanni si usava negli anni 60 e 70 e poi sono 50-60 anni che ha. Eia! E vabbè Giovanni, se non lo usi me lo dai a me, che lo metto in vetrina insieme agli altri. Magari a darlo magari non ne vuole, perché uno lo voleva, non glielo dato perché non voleva la 50, capito? Per cui, vediamo, certo lo faccio vedere là qualche giorno, ok. Sì, andare. Avanti Torì. E niente, io volevo fare ordine, nel senso dove c'è lo sgabuzzino, niente, ogni tanto entro, faccio pure pulizia, faccio bottone, butto via, ogni tanto devo per forza, quelle troppa roba ciocca, non so, non è roba che mi serve, roba che anni e anni non tratto, mi occupo la sua posta e basta, e quello me la faccio. Però roba di apparati non ho niente, c'è solo due barecchine a parte, questo già da mettere a canale. Va bene nel senso che se trovo la stazione fissa chi trovo tu ora? L'ho messo anche in vendita questo qua, penso un po', c'è dove tiro, lo so, non mi frega niente. Va bene, ma allora un attimino che hanno suonato. Sì, Giovanni, e tu quello là ancora ce l'hai tu il radione? No, non c'ho più niente, è tutto dato via. Cazzo, tutto è venduto, chi sta parlando? Da che pulpito viene la predica? Per carità, cazzo, tu a te non ti rimane mai niente. Ma non ti ricordi più quando abitavi a lavorare tua madre, cosa tutto ci avevi? Sei venduto vincere le monti? Hai fatto qua un comodino che ha pulizzato la roba, l'ho troppo modificato, tanto remaglio, e poi bagosa, tutto la tua via. Già era uscito bene quel mobiletto, dai, già era bello a posto, ci stavano bene la Galaxy e le altre radio. L'avevo fatto su misura, ma lui ci ha messo tanto di buona armonia e fatto, e poi, le misure sono fatte che bene. Avevo preso come le Galaxy, che avevo anch'io, come mi sono pentito che l'ho dato, mi sono andato venduto in più di quello che avevo pagato io, che avevo sfruttato 2-3 anni. La Galaxy è già bella, già bella. Ma ti ripeto, guarda, mi basta questo che ho adesso, cosa mi fa? Tanto a canale, basta avanza, tanto mi fa vita, 10 minuti, basta e avanza. Sì, in effetti, così, io sono qua, andato a mettere canale, tu pensa che intanto a mettere canale, il microfono normale, è da sincata perché è sempre fermo, poverino. L'ho acceso, però è macchina non lo uso e quindi devo cambiare il commutatore. di Vagazza, ma insomma dicendo, io ho visto sul market free, c'era il presidente come c'ho io, uguale, 180 euro lo stavano dando. Vabbè, ognuno mette il prezzo che vuole, capito? Poi fai e chi te lo compra quel prezzo, nessuno, va. Gloria, Emanuele, purtroppo è così, io ripeto, se trovo l'attenzione, me lo prendo a buono. O se no qualche giorno qui, se mi capita una bella fiera, ci parto e buonanotte, e me lo pigli in fiera. Alla fiera di Milano, cazzo, quando c'ero io lì a Milano, lì fine settimana facevano lì, ma di nutrita, di tutto, dai PL fino a Altella, dai cavi a condensatori, valvole, quelle radio a valvole, di tutto c'era tu lì, a scelta, guida di tutto, ma fiera però, ma no come che va a tenere in occhio, che è tutto mondezza. Esce la propagazione, stava addirittura sopravvotolato quasi. Sì, ma è a Milano che video era che c'è questa fiera, te lo ricordi, ma vabbè. Allora, la fiera la facevano dalle zone di Galbiate, le zone di Italia Varese, e da tutte le parti le facevano. Anche lì dove c'era vicino all'aeroporto, a Milano. Attenzione che in FM rompete le spallucci con la pallotta se andava un altro canale che poi ha fatto, funzionò se mi vede, ma mi sa quanto la compagna. Sono forti, In FM sono, funzionano, sì. Vabbè, comunque già un po' di tregua, perché tu devi capire che non sai che io ho anche due cani di bonifica, ho trovato il modo per si devo mancare due giorni, faccio qua e qua. Poi devi smuovere adesso la figlia, hai capito? E la figlia è fatta, buonanotte. Non la posso lasciare solo per due dita, se vuoi mangiare due dita, e come ti facciamo con la casa? La posso lasciare fuori, no? Abbassa un po' la purificazione, te lo dico, messo. Cosa mi vuoi, cosa vuoi? Perché le scavi. Così va bene, adesso va benissimo. Guarda, cazzo, io mattina, devo venire, devo se mi si dà l'uva. Ma noi, scendi su l'uva, che quanti zucchero, E ti sono sopravvotolato qua, vai sul canale 8. Ma va sul 23. Ah, io sul 23. C'è un altro che ti ha messo sopravvotolato. O è un guasto, o è un malato di mente. Ah, si va a bidare il culo. E possiamo andare anche al canale 80, mi gira. Ah, non mi interessa. Poi lascia il fare, capo. Dai, anche guacchia, guacchia. Senti, uno, ci vuole giù, sì. Sta divertendo, non è 22, ma non è. Ma in casella ci sentiamo più